Sono in collegamento telefonico con Fabio Galanti. Ciao Fabio, benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao Rachele, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Mi volevo togliere questa cosa, finalmente posso dirla. Sì, esatto. Allora, Fabio, uno degli spettacoli del Teatro Testoni, La Bella e la Bestia, è stato selezionato per essere visto anche dalle scuole giapponesi e questo fine settimana diciamo che succederà la stessa cosa ma con l'India. Ci puoi raccontare questo progetto internazionale? Esatto, allora, il progetto internazionale nasce con il Giappone tramite l'associazione italo-giapponese che ci ha contattato perché ardentemente volevano uno spettacolo nostro che è appunto la bella o la bestia, perché è uno spettacolo che tratta appunto il tema dell'arte, la visione di quello che è il gesto istintivo dell'artista, insomma questa è la cosa. E dovevamo andare in Giappone. Questo era il grande sogno di una vita, di poter andare in Giappone e fare spettacolo per le bimbe e le famiglie giapponesi. Purtroppo c'è la pandemia di mezzo, di conseguenza non siamo potuti partire. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto lo spettacolo, l'abbiamo proiettato, l'abbiamo registrato e mandato là, e abbiamo fatto un laboratorio connesso allo spettacolo. Tutto questo, dice, cosa c'è di strano? C'è di strano solamente il fatto che là sono 8 ore, c'è un cambio di 8 ore, quindi noi eravamo in teatro di notte a fare queste cose. Nel cuore della notte ed è stata un'esperienza molto bella, ecco. Diciamo che avete trovato un po' un modo per superare le restrizioni della pandemia. Inevitabilmente sì, questo diciamo che la tecnologia in questo ci ha aiutato, però nel senso sempre con un occhio un po' distaccato. Il teatro purtroppo, e anche per fortuna, ha il vincolo stretto che è una forma d'arte che si basa sulla partecipazione. È comunque un incontro, è uno scambio tra persone che sono una di fronte all'altra. Di conseguenza parliamo del fatto che noi siamo stati là, ci hanno visto là, però purtroppo non abbiamo percepito, perché quello è un discorso molto importante del teatro, la percezione del pubblico, la percezione della risposta dei bambini, la percezione di quello che sta passando nelle loro menti. Quindi è mancato un colore, un quadro molto bello. Comunque, fatto sta che siamo stati là, abbiamo fatto laboratorio, quindi i genitori con i bimbi erano connessi dalle loro case, quindi noi siamo entrati nelle loro case, vedevamo anche la quotidianità di queste persone, di questi bambini, e abbiamo giocato, permettetemi il termine giocare, però nel senso abbiamo fatto laboratorio con loro, un laboratorio che era basato sia su una parte fisica di un riscaldamento classico di laboratorio teatrale e più avevo attaccato una parte di visiva, visuale, di utilizzo del materiali semplici che usiamo nello spettacolo, ecco questa è la cosa, delle plastiche, dipingiamo in trasparenza, facciamo dei giochi che si possono riproporre anche a casa e potevano farlo anche i bambini con i loro genitori o solo i bambini come in molti casi, ed è stato molto bello, molto emozionante. Ti volevo chiedere Fabio anche come sono cambiate le attività per i bambini, per le bambine senza appunto possibilità di contatto, di visione, che è un po' tutto quello che ci stavi raccontando anche adesso, no? Tu lavorando a contatto con loro, come pensi che sia cambiato in questi ultimi anni anche la loro condizione di gioco, ecco? Sai, questo purtroppo ti rendi conto che il discorso appunto nel teatro che è proprio una questione di vicinanza, di prossimità, cioè avere il discorso del prossimo è un discorso del prossimo, il prossimo vicino, ed è una grande mancanza. L'altra cosa che ti posso dire, quello che si vede, quello che percepisco, vedendo anche adesso comunque le sale col distanziamento, purtroppo un po' di nostalgia in tutto questo, perché quando ci sono le situazioni normali dove ci sono la sala piena di bambini spalla a spalla, fondamentalmente quello che succede durante è vedere la condivisione di un gruppo che vive un evento e quindi vedi che si spalleggiano, si aiutano, cioè, e quella è una cosa che sicuramente manca tantissimo, però naturalmente siamo andati avanti, siamo sempre stati alle regole che sono state messe, quindi abbiamo sempre fatto il discorso per i distanziamenti, con contingentare il pubblico e le entrate. Il pubblico per fortuna comunque capisci che aveva voglia, aveva bisogno proprio di tornare anche a vedere qualche cosa dal vivo, qualche cosa che ci fosse per gli esseri umani, non solamente filtrato tramite uno schermo, però è cambiato e ce ne rendiamo conto adesso facendo i laboratori anche con i più grandi, che comunque c'è una cicatrice che ci portiamo e ci porteremo a per molto tempo di quello che è stato questo evento, questo cataclisma, questa cicatrice che abbiamo e che avremo. Fabio, che dirti? Io innanzitutto ti ringrazio per averci raccontato questo vostro progetto internazionale e ti auguro anche in bocca al lupo per il collegamento che avrete questo fine settimana con l'India, insomma. Anche esatto. Questa volta andrete lontano più o meno fisicamente, virtualmente. Esatto, andremo con orari un po' più tranquilli, però nel senso questa volta ci saranno Giada e Sara che fanno parte di uno spettacolo che si chiama Cornici e andranno in questo festival in India che si chiama Think Magic ed è un festival sul teatro, dello teatro d'oggetto, teatro di figure. Loro parteciperanno e faranno anche un intervento, una sorta di micro laboratorio per i bimbi e le famiglie di Mumbai. Perfetto, ecco. Fabio, io ti ringrazio veramente per averci raccontato grazie, tutto questo progetto. Grazie mille, grazie a te, grazie a voi, grazie agli ascoltatori, e speriamo di risentirci. Il magico mondo della radio è un mondo bellissimo, perché c'è una cosa fondamentale che ci lega comunque col teatro, che è una parte di invisibilità, che sì, è fondamentale, molto importante, ecco, non ce la dimentichiamo. È vero, grazie. Bene, ancora Fabio. grazie a te Rachele, ciao, buona giornata.